Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Mi domando chi pagherà per queste attività che, a mio modesto avviso, hanno soltanto finalità eversive. Una vergogna, veramente, guardi, uno schifo è una vergogna. E non so come pagheranno. Nessuno pagherà, alla fine pagherà lo Stato, perché naturalmente intenterò una causa allo Stato, perché sapete che non c'è la responsabilità dei magistrati. Silvio Berlusconi è furioso, il PDL mette l'elmetto e definisce i giudici un'avanguardia rivoluzionaria. Il presidente del Consiglio dei Ministri parla di golpe, dice di essere spiato come nella DDR. Prosegue, l'ultimo giudice è il popolo, evoca in una sorta di cortocircuito proprio i meccanismi delle democrazie popolari che ispirano la sua citazione. Il PD replica sullo sfondo e parla di toni terroristici da parte del capo del governo. Insomma, a poco più di un mese dal 17 marzo, che dovrà celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'avvitamento procede e quella festa neonata appare destinata a restare orfana. Punto e a capo. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. In questa sesta settimana del 2011 la febbre resta alta in tutto il Mediterraneo, dal sud lacerato che cerca di rimettersi in marcia, all'est balcanico dove i fari spenti sull'Albania non hanno però risolto la crisi, dal Cairo dove mentre il Rais studiava come uscire di scena abbiamo osservato per giorni l'attesa di un popolo che chiede di cambiare. Cambiare cosa, cambiare come, per fare ed essere che cosa? Questo è molto più complicato. E a nord di questo spazio c'è l'Europa, rappresentata proprio dall'Italia, con le sue grandi complicazioni. Tra distanze e puntualizzazioni, tra provocazioni e lontananze, la festa del 17 marzo per i 150 anni dell'Unità d'Italia svapora nei distinguo. Questa settimana un sussulto di amor patrio è stato innescato solo dal presidente della provincia di Bolzano, Luis Dürnwalder, che dopo essersi tirato fuori dalle celebrazioni ha spiegato ad Alessandro Milan il suo punto di vista. Lei sa che noi nell'anno 1919 non abbiamo scelto liberamente lo Stato italiano, noi eravamo per oltre 1000 anni con l'Austria, siamo stati staccati dall'Austria, siamo diventati una minoranza austriaca che vive in Italia. Dopo 1919 abbiamo sofferto moltissimo, molti dei nostri genitori hanno dovuto pagare delle multe, anzi hanno passato anni in carcere solo perché volevano parlare in tedesco, volevano vivere la propria cultura, eccetera, eccetera. Quindi lei dice ci sentiamo una minoranza austriaca e sì, quindi cosa abbiamo da festeggiare? Bacchettato dal presidente napolitano, Dürnwalder tira dritto e non è l'unico. Certo che aspettarsi che a tirar la corsa al tricolore siano gli italiani di confine forse è ingeneroso. Peccato, come è un peccato che la storia delle autonomie, le nostre autonomie linguistiche e culturali, una vera e propria lezione di civiltà di cui noi italiani dovremmo andare fieri, non venga nemmeno insegnata nelle scuole. Tutto questo accade a metà settimana e nello stesso giorno, come accade spesso, il controcanto arriva dal mondo dello sport. Lo slalomista Christoph Innerhofer di Brunico vince l'oro ai mondiali di sci. A un altoatesino sudtirolese che di anni ne ha 26 e che è cresciuto nella civiltà del bilinguismo e dell'autonomia, il nostro Dario Ricci pone la domanda classica: a chi dedichi l'oro? Sì, certo, intanto parto per la Federazione Italiana e sulla tuta dell'Italia e certo che lo dedico all'Italia. Eccola dunque la risposta, meno patria, magari più appartenenza, di un giovane europeo, di passaporto italiano, di lingua madre tedesca. Certo, difficile costruire una bella polemica su una risposta così. Ripartiamo appunto dal sud del Mediterraneo che abbiamo citato poco fa, dal Cairo, al centro del quale una piazza racconta ormai da 18 giorni la voglia di cambiamento del popolo egiziano. Alberto Negri ci fa il punto. Sono le 18. Egitto, dopo 30 anni al potere, si dimette Mubarak. Al Cairo un'esplosione di gioia. Quella che sentite naturalmente è la gioia, l'esplosione di gioia di piazza Tahrir dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente egiziano Hosni Mubarak. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Centinaia di migliaia, milioni riuniti tra piazza Tahrir, il centro del Cairo, sono esplosi di gioia all'annuncio delle dimissioni del presidente egiziano Mubarak. Addirittura ci sono stati svenimenti, urla, la piazza è praticamente impazzita. Forse in pochi si sono accorti che la piazza ha vinto, ma anche i militari hanno vinto, cioè che questo è in pratica una sorta di colpo di Stato, perché i militari non solo hanno accompagnato alla porta Mubarak e l'hanno costretto alle dimissioni, ma adesso prendono in mano il potere in questo paese. Che cosa accadrà? Secondo la Costituzione dovrebbe diventare presidente il capo della Camera e poi convocare elezioni entro 60 giorni, ma in questo momento tutto è avvolto nella incertezza, ma anche nell'enorme gioia di un popolo che ha battuto il suo dittatore. Punto e a capo. Rieccoci dunque in Italia. Abbiamo aperto sulla polemica durissima, lo scontro ormai tra il capo del governo, la magistratura. Ecco, prima di arrivare ai toni durissimi delle ultime ore, la vicenda Ruby aveva innescato letteralmente le polveri proprio all'inizio della settimana. Raffaella Calandra ce ne ha dato conto. Sentiamo. Un'ultima riunione, poi la decisione. Rito immediato per Silvio Berlusconi, sia per concussione che prostituzione minorile. Due mesi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati, la Procura di Milano sta per inoltrare questa richiesta al giudice, dopo aver stralciato, ossia separato in diversi fascicoli, la posizione del Premier da quella degli altri indagati. Il nodo giuridico sembra dunque essere stato sciolto, tenendo da subito insieme i due reati contestati al Premier. Verbali, intercettazioni, foto, ma anche memorie difensive saranno presto sul tavolo del GIP Cristina Dicenzo, che avrà 5 giorni prorogabili per stabilire se ci sia davvero quell'evidenza della prova necessaria per andare al rito immediato, saltando l'udienza preliminare. Di sicuro nella richiesta di giudizio non risultano nuove contestazioni a Berlusconi rispetto alla seconda minorenne Iris, comparsa nell'indagine dopo Ruby, sulla cui effettiva età si consumerà parte della battaglia giudiziaria. La preannuncia l'avvocato del Premier Nicolò Ghedini, secondo cui la procura viola la Costituzione perché a giudicare dovrebbe essere il Tribunale dei Ministri. Col conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sullo sfondo, il caso Ruby incrocerà dunque i vecchi processi del Premier che ora riprendono Mediaset, Mediatrade e Mills. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. La contrapposizione tra istituzioni, nata nel caso Ruby, e più in generale il patologico scontro in atto tra le forze politiche che non risparmia nessuno, ha raggiunto e superato il livello di guardia. Lo dice il vicepresidente del CSM, Michele Vietti, che naturalmente difende il ruolo della magistratura. Io ho affermato che la magistratura non persegue finalità eversive, ma anzi combatte l'eversione, come ha fatto anche pagando un tributo di sangue quando ha combattuto proprio quei terroristi che hanno vilmente ucciso Vittorio Bachelet. Comunque sia, è certo, appare evidente che ci sia veramente una sorta di spirale che continua ad avvitarsi. Così racconta e riflette sulla situazione politica Stefano Folli. La spirale continua ad avvitarsi, è la spirale di un violento conflitto politico in atto e di un conflitto istituzionale che un passo dopo l'altro sta esplodendo in forma plateale. Questa è la situazione senza apparente via d'uscita in cui vive il Paese. Da un lato c'è il Presidente della Corte Costituzionale che giudica offensivi i ripetuti attacchi a cui sono sottoposti i magistrati della Consulta, ma più in generale l'ordine giudiziario. e dall'altro c'è un Presidente del Consiglio che teme di vivere ormai nella Germania comunista, dove imperversava la Stasi e il sistema di spionaggio nella vita privata dei cittadini. È difficile, come si vede, uscire da questo labirinto potenzialmente distruttivo. Il ruolo di equilibrio del Presidente della Repubblica è sempre più difficile e Napolitano è costretto a camminare lungo un sentiero sempre più stretto. In fondo le parole di Berlusconi al Foglio, un'intervista in cui si sente molto la mano e il pensiero di Giuliano Ferrara, è una sorta di appello al Quirinale perché trovi una soluzione al rebus. Ma quale soluzione può esserci a breve termine? Purtroppo l'impressione è che non ce ne sia nessuna e che lo scontro con la magistratura continuerà, in attesa che un fattore decisivo, imprevedibile, intervenga a cambiare le cose e ad aprire la corsa verso le elezioni anticipate. Quale soluzione a breve termine? Siamo davvero in qualche modo in mano al caso, agli eventi? Sulla prospettiva politica parla anche il capogruppo del PDL a Montecitorio, Fabrizio Cicchitto, che a chi evoca il quadro, il profilo del 1993 dice: no, non deve finire come nel 93, non finirà come allora. Il gruppo dirigente del PSI si squagliò, ognuno badò a se stesso, convinto di salvarsi, abbandonando Craxi al suo destino. Questa volta il gruppo dirigente del PDL è unito e consapevole che deve restarlo. Staremo a vedere, insomma. Intanto il teatrino si agita. Tra le perle della settimana, l'ascoltatissimo ministro Gianfranco Rotondi, classe 1960, da Avellino. La scorsa settimana si era impegnato a pregare per l'anima del vescovo di Mazara del Vallo, preoccupato per la decadenza morale dei governanti. Nel senso che Rotondi si era impegnato a pregare per l'anima del religioso, caduto, a suo avviso, nel peccato mortale di aver giudicato qualcun altro. Questa settimana, invece, nella sua veste di difensore a tutto campo, ha sorpreso persino i conduttori della Zanzara. Ma dico di più. Quando ognuno di noi fa la festa ai bambini e chiama l'animatore, l'animatrice... No, non tiri fuori la festa ai bambini. No, voglio dire, gli paghi l'onorario o no? Ma come la festa ai bambini? No, non erano feste per i bambini. No, non faccio paragoni d'ambulanza. Parlo del concetto giuridico, non parlo di un paragone tra le due feste. Festa a casa sua, cioè loro erano delle animatrici. Certo. Erano delle animatrici dell'Arci. Chi chiama l'animatore a casa per una festa di bambini, di grandi, di vecchi, in ospizio, dove che sia, chi va a fare l'animatore o lo spettacolo? Rotondi, due punti, quelle erano delle animatrici. Ma mi pare abbastanza chiaro, nel senso chiaro. Che erano persone che animavano la festa, e questo sicuro, l'animavano, dal punto di vista artistico venivano poi pagate per quello che avevano fatto, chi ballava, chi cantava, sinceramente. Che poi uno è una grande ricostruzione, posso dire che è una grande ricostruzione. Punto e a capo. Ripartiamo dal federalismo. La commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presieduta da Enrico La Loggia, avvierà mercoledì prossimo a Palazzo San Macuto l'esame del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Adesso attingiamo nell'archivio della settimana di Radio 24, ripartiamo da Matteo Salvini, ospite di Alessandro Milan. E quindi occorre faticosamente cambiare, come? Mettendo insieme i pezzi di un puzzle. È chiaro che se ci fermiamo ad oggi, a questa mattinata di febbraio, e se il percorso del federalismo fosse quello che c'è a stamattina, non accontenterebbe nessuno. Però se io non metto il pezzo del puzzle di stamattina, non arrivo alla fine del prodotto. È chiaro che io da milanese, io ho da guadagnarci, come non come amministratore milanese, ma come cittadino milanese, almeno 200 milioni di euro all'anno a federalismo municipale vigente, punto. E si fa fatica, e qua arrivo alla fine. È chiaro che i nemici del federalismo sono tanti, perché il federalismo non è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, c'è riuscito un signore 2000 anni fa. Col federalismo, che è un diverso modo di gestire le risorse, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde. Evidentemente c'è una parte del paese che o spende meno, o assume di meno, o aumenta le tasse. Mi sembra che a Roma Comune di Roma ha un debito, pensate la follia, di 11 miliardi di euro. A Roma il sindaco attuale, per pagare i debiti dei sindaci precedenti, ha aumentato l'addizionale IRPEF, l'ICI sulla seconda casa, il biglietto del tram, eccetera, eccetera. Col federalismo chi gestisce bene ci guadagna, chi gestisce male, diciamocelo, ci perde. E quindi è evidente che noi abbiamo scelto la via non della rivoluzione, però l'Italia in questo momento ha bisogno di un pochino di tranquillità, e quindi come Lega vengo accusato da alcuni di voler dividere il paese e da altri di non portare a casa un fico secco. Però è 20 anni che facciamo fatica, faremo fatica ancora per qualche anno. Ripartiamo dalla cronaca, che racconta di un incontro molto positivo in un clima di piena collaborazione. Così il sindaco di Roma Gianni Alemanno, al termine di un incontro avvenuto giovedì durato circa un'ora al Viminale con il ministro Roberto Maroni. Il tema era quello dei punti di vista molto distanti innescati all'inizio della settimana dalla tragedia di Tor Fiscale. Andrea Viali ce l'ha raccontata. È una convivenza che va avanti da tempo, quella fra i nomadi e gli abitanti della zona di Tor Fiscale, non lontano dall'ippodromo romano di Capannelle sull'Appia Nuova. È qui che domenica 4 bambini rom sono morti nell'incendio della loro baracca. Il campo era stato sgomberato anni fa, ma col tempo alcuni nomadi erano tornati. Non sono passati neanche 20 giorni dall'ultima volta che lo avevamo segnalato, ricorda amareggiata la presidente del municipio di zona, Susi Fantino. Queste sono cose che si potrebbero evitare, soprattutto nelle situazioni come queste, che erano state segnalate dal municipio, erano state segnalate anche dai cittadini, dalle forze dell'ordine, e che purtroppo non c'è stato nessun intervento efficace. La morte dei 4 bambini ha scosso anche chi vive e lavora attorno al campo che fino a ieri ospitava il piccolo insediamento abusivo. Difficile, parlando con loro, sentire parole di intolleranza verso i rom. Ogni tanto poteva capitare che gli davamo l'acqua. Basta, li vedevamo passare tutti i giorni, la loro era una vita difficilissima. C'erano molti bambini? Sì, li vedevamo passare con le biciclette, con le palle, i palloni. I bambini ce ne stanno tanti, anche tante donne incinte. Da parecchio c'erano nomadi? Abbastanza. Davano problemi? Vabbè, stanno lì, non è che davano fastidio. Qua anni fa ce n'erano tantissimi, però un po' più avanti. Poi piano piano sono ritornati questi, poi li hanno fatti rimandare via e poi sono ritornati, tutto, li cacciano e ritornano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il comune infatti chiedeva soldi, ma la reazione del Viminale era stata molto secca. Questione di soldi e di una lettera. L'attrito tra il Comune di Roma e il Ministero dell'Interno sulla gestione dei campi nomadi nella capitale passa da questi due elementi. La lettera è quella inviata al Viminale dal sindaco e dal prefetto di Roma. Gianni Alemanno e Giuseppe Pecoraro chiedono 30 milioni di euro per gestire la situazione, oltre a tende in cui trasferire chi vive in accampamenti o microaccampamenti abusivi e nuovi poteri speciali. Come dire, non possiamo fare molto se il governo non ci dà i mezzi necessari. Mossa che sorprende il Ministero dell'Interno, che risponde ricordando come il Viminale abbia già stanziato 20 milioni di euro per l'emergenza nel Lazio, ai quali vanno aggiunti altri 12 concessi da Comune e Regione per un totale di 32 milioni di euro. Nessuna nuova esigenza, concludono dal Viminale, era stata finora segnalata dal Comune. Chiederò un incontro urgente al Ministro Maroni, risponde il sindaco Alemanno. Non concedere nuove risorse significa non voler risolvere la questione e continuare ad alimentare l'emergenza. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. We need an economy that's based not on what we consume and borrow from other nations, but what we make and what we sell around the world. We need to make America the best place on earth to do business. Dobbiamo costruire un'economia che sia capace di vivere non tanto di quello che consumiamo, ma di ciò che produciamo e vendiamo nel mondo. Insomma, è ora di investire in patria, di assumere per fare ripartire l'economia. Lunedì sera il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha varcato una soglia davvero delicata. È quello che l'ha portato alla Chamber of Commerce, la più grande lobby degli industriali americani. In passato il presidente aveva sempre evitato quella platea, un rapporto

L'intesa prevede un aumento del 3,2% su un periodo di 16 mesi, a cui bisogna aggiungere un versamento una tantum dell'1% del salario annuo, pari a una somma minima di 500 euro l'anno. Secondo i primi calcoli si tratta di un aumento del 3,1% su base annua rispetto a un tasso di inflazione che nel 2010 è stato in Germania in media sull'1,1%. Bene, sui successi di Volkswagen sentiamo l'analista Paolo Malagodi. La politica che sta sviluppando Volkswagen è una politica di estrema concretezza, fatta non di dichiarazioni ma di fatti. Oggi Volkswagen mette a segno dei frutti di questa strategia. In Brasile supera la nostra Fiat, che pure è una casa eminente in quell'area, ha una strategia d'ingresso nel prossimo 2012, ma già a questo fine 2011 ne vedremo gli esemplari, in un segmento che Volkswagen ha sino ad oggi non praticato, quello delle city car. Quindi la solidità delle proposte di Volkswagen sono basate su un'innovazione molto rapida dei modelli, una caratteristica molto ampia di motori 4, 6, 8, 10, 12 cilindri, una volontà di gestire diversi marchi che non sono solo Volkswagen, Seat e Skoda, ma anche Audi, anche Lamborghini, e addirittura la volontà di Ferdinand Pia, che è quella che Marchionne prima o poi si decida a vendere Alfa Romeo, e Ferdinand Pia sarebbe ben lieto di mettere Alfa Romeo nella sua scuderia, dovendo Marchionne prima o poi fare cassa anche per arrivare al 51% di Chrysler. Quindi io credo che Volkswagen stia facendo oggi i passi che sono quelli dichiarati, e sempre più avremo questa dimostrazione. Siamo arrivati all'ultimo blocco del nostro appuntamento della settimana. Come di consueto, tra poco andiamo al cinema, o meglio a sentire un po' quelle che sono le proposte dai festival e anche dal mondo del teatro. Prima però facciamo un passo indietro, torniamo a Essere e Benessere. Nicoletta Carbone parlava con la dottoressa Villani della qualità dei modi giusti di proteggere i nostri occhi, insomma un tema che di tanto in tanto vale la pena affrontare anche alla radio. Sentiamola. Durante l'uso di questo computer a fissare lo schermo, quindi in questo frangente siamo portati ad aprire e chiudere poco le palpebre. Chiaramente l'ammiccamento palpebrale, oltre ad essere un meccanismo di difesa, è un atto che serve a lubrificare l'occhio stesso. Ne consegue che durante l'uso del computer, aprendo e chiudendo meno le palpebre, il film lacrimale che fisiologicamente è presente nell'occhio tende un po' ad evaporare. Certo. E quindi questo ricambio del film lacrimale viene meno assicurato. Per questo uno dei motivi per cui dopo un uso prolungato del computer abbiamo gli occhi arrossati. Quindi noi al computer ricordiamo di ammiccare, facciamo degli esercizi di ammiccamento. Per chi invece deve stare attento, penso molto attento alla strada, penso alle persone che stanno per ore e ore in macchina, ci sono molte persone che mi stanno scrivendo, faccio il camionista, sono stanco, la gente di commercio sono sempre in macchina, quale esercizio possiamo suggerire, dottoressa Villani? Ma durante la guida, per esempio, è utile prendersi delle pause ogni ora e mezzo, ogni due ore, anche se non se ne sente la necessità, sia per spezzare la concentrazione che per far riposare un po' la vista. Pensate che durante la normale visione noi coinvolgiamo 16 muscoli oculari, perché 12 sono interessati, 6 per occhio durante i movimenti, e 4 li coinvolgiamo per la messa a fuoco. Quindi solo per guardare noi coinvolgiamo 16 muscoli del nostro corpo, senza pensare alla mimica facciale, alla postura del collo, eccetera. Per cui durante la guida possiamo fare questa pausa, e durante tale pausa è bene guardare il più possibile in lontananza per qualche minuto, perché questo ci aiuta a mettere a riposo appunto questi 16 muscoli oculari che sono coinvolti durante la visione. Punto e a capo. Bene, consigli ricevuti, adesso andiamo al cinema. Questa settimana il Festival di Berlino. Nessun italiano in concorso, ma tre film nelle sezioni collaterali. Sono Qualunque mente con Antonio Albanese, Le quattro volte di Michelangelo Frammartino e Gianni e le donne di e con Gianni Di Gregorio. La storia è quella di un sessantenne che riscopre le donne, o perlomeno ci prova, con esiti molto incerti. rischio paventato è che la stampa straniera possa in qualche modo togliere e non cogliere la poesia del film, buttandola magari sugli scandali italiani tra sesso e politica. Marta Cagnola ne ha parlato con Gianni Di Gregorio. Ti confesso che mi sono messo in gioco tanto. È nato da, veramente da, l'atteggiamento di tutti i sessantenni, amici miei, anche dal mio, davanti al fatto che le donne non ti si fidano proprio più, non ti... Cioè, prima c'era il sorrisetto, cioè quella cosa, la signora sull'auto da lontano, no? Io non ricordo questa cosa, l'occhiatina, prima di scendere gli facevi l'occhiatina per vedere chissà se mi guarda, stupidaggini, però ti portavi a casa qualche cosa, era un pezzetto di sentimento, chiamiamolo come lo vogliamo. Adesso ti puoi dare fuoco proprio e non ti guardano più perché hai superato, capito, il limite. Sta cosa a me prima di preoccuparmi di stare male, ho detto facciamoci un film, facciamoci due risate su questa cosa. Adesso non lo so, come magari fra un anno starò malissimo. E ora il teatro, ultimi giorni di prove per Di nuovo Buonasera, che Gigi Proietti sta per portare a Milano allo Smeraldo dal 17 al 20 febbraio. Marta Cagnola lo ha incontrato durante le prove. Questo spettacolo, come tutta la sua comicità, ha a che fare col tempo e con la memoria. È una cosa molto importante. A tutti i miei spettacoli, sa. Se lei pensa lo stesso a Megli Occhi Plissidi, di cui si parlava, lei è molto troppo giovane, forse non lo può ricordare. Ma era un po' questo, cioè addirittura lì la cosa veniva visualizzata. Per molti spettacoli che ho fatto portavo una cassa, e questa cassa dicevo: questi sono i ricordi del mio futuro. E quindi già da allora, ma è una cosa abbastanza logica, insomma, per chi fa teatro, specialmente da solo, che deve parlare dei suoi materiali. Il primo materiale che noi abbiamo, il più importante, è la memoria. La memoria e il tempo sono parenti, insomma. Facevo anche dei pezzi specifici sulla memoria, come passa il tempo, c'erano dei pezzi, e anche questo qui magari è una memoria che non è proprio solo mia, ma è una memoria storica, una memoria di tanti e anche di alcuni giovani che non ce l'hanno come memoria, ma ce l'hanno come memoria collettiva, varietale. Infatti è un pretesto, ovviamente, non è uno spettacolo scientifico sul varietà, insomma, è un gioco. Quanto ha contato il varietà per la storia d'Italia? Beh, per una certa Italia moltissimo, cioè l'Italia della quale si parla poco, che è l'Italia popolare, l'Italia parallela, diciamo, no, a quella dei grandi eventi dove campeggiano le figure degli eroi, dei grandi politici, dei grandi... l'Italia è quella normale, diciamo così, di chi lavora, di chi non ha grandi capacità produttive. Il varietà è stato importantissimo, perché si pagava poco, si vedeva il cinema, più le ballerine, capirai. Punto e a capo. Che bella voce Proietti. Beh, non è una gran scoperta. Bella voce anche Marta Cagnola, che finalmente mi raggiunge in studio. Buongiorno Marta. Grazie Gigi e buongiorno. Ecco, ti abbiamo sentito parecchio, ma oggi ti volevo in studio perché qui inizia una settimana particolare. Tu hai già lì le tue valigie, anzi dovrei dire beauty case e dintorni, visto che la destinazione è Sanremo. Ebbene sì, beauty case, tacchi alti, trucco, make-up, tutto quello che ci vuole, ma soprattutto mi preparo a non dormire praticamente per una settimana, perché la settimana del Festival di Sanremo è intensissima, bisogna seguire tutti i cantanti, tutti gli artisti, quest'anno c'è anche il cast dei presentatori particolarmente interessante, e cercheremo di raccontare tutto quello che succede davanti e soprattutto dietro le quinte del Festival. Ecco, perché Sanremo effettivamente se ne parla tutti, ognuno con il proprio atteggiamento, non lo vedo, lo vedo, eccetera eccetera, ma è veramente un pezzo di storia. Quest'anno si fa giustamente un gran parlare in vari modi dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Beh, il Festival della Canzone il suo ruolo ce l'ha e quindi ci interessa per tante sfumature. Radio 24 lo seguirà molto. Cercheremo di capire l'importanza della città di Sanremo, cercheremo di capire l'importanza di Sanremo, ad esempio, nell'economia della musica, ma cercheremo di capire anche quanto conta Sanremo nella storia dell'Italia, del costume italiano. Pensiamo solo ai testi delle canzoni in questi 61 anni del festival. Beh, insomma, hanno sempre raccontato quello che era l'Italia e secondo me lo faranno anche quest'anno. Ecco, e naturalmente racconteremo e cercheremo anche di divertirci, perché insomma, tu hai citato i presentatori. Morandi, formidabile, un'icona, anche chi in fondo non segue molto Sanremo, lo conosce, lo segue. E poi ci sono, come si chiamano ormai, vallette? Non si può dire, anche perché stanno preparando i balletti, quindi saranno anche ballerine oltre che co-conduttrici. Ballette. Le ballette, sì. In radio non si possono vedere, quindi potremo parlarne con grande serenità, perché effettivamente la loro immagine un po' distrae dal contenuto. Sono veramente bellissime. Ecco, Elisabetta, a un certo punto, esatto, Elisabetta Canalis dunque e Belen Rodriguez, finito, definitivo. C'era stato un momento, non arrivavano le conferenze stampa, ma non cos'è, si sono pretattica, colore? Ma secondo me un po' di pretattica, come è pretattica il fatto che si cominci a parlare di una rivalità tra le due. Io non ci credo, però fa sempre colore, bisogna sempre trovare non si la possono polemica. Vedere. Ma fingiamo che sia tutto vero, sì, pare che si siano solo incrociate in alcune sale prove da ballo, ma che non si amino molto. E tra l'altro, per seguire un po' questo, su questo terreno, Clooney accompagnerà la signora Canalis. Secondo me non arriva, anche perché la signora Canalis non alloggia a Sanremo ma alloggia a Monte Carlo. Lo fanno spesso gli artisti, possiamo dirlo, i più snob scelgono di alloggiare a Monte Carlo, e quindi secondo me se Giorgia arriva non si fa vedere a Sanremo. Però sono sempre pronta a essere smentita. Ecco, e a smentirti sostanzialmente, perché Marta Gagnola ci racconterà tutta questa settimana. Quindi brevissimo, appuntamenti diciamo focalizzati su Sanremo. Cosa allora, dobbiamo ricordare? Di ricordarceli tutti. Giornali radio delle 7, 12, 13, 19, il GR Spettacoli delle 8 e 15 che andrà quindi in onda tutte le mattine da Sanremo, e gli appuntamenti nelle varie trasmissioni di Radio 24. E naturalmente ci ritroveremo su questo tema anche qui, appunto, e a capo proprio sabato prossimo. E con questo abbiamo concluso, non mi resta che ringraziare Roberto Scaltritti in regia, salutarvi, augurarvi naturalmente un ottimo fine settimana.